Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Papà, ti piglio qualche cosa? Sì. Come ti piglio? Con la frusta. E tu cosa fai? E io piaglio. Perché gli meno con la frusta? No, perché con la frusta non è crudo al meglio, ragazzino. Se praticamente gli dante un carcio, gli rompo una costata, invece con la frusta non è che danneggia, se sente il dolore semplicemente senza danneggiarlo, perché anche con lo schiaffo basta che lo piglio bene, che il cervello è così, il ragazzino diventa, a me non mi basta. C'ha ragione, esatto. Senta, ma ha ottenuto dei risultati con la frusta? No. A scuola hai mai preso lo schiaffo? Questo era un documentario di Comencini, I bambini e noi, che anno era, provate a indovinare, era il 1970, già stavamo nei favolosi anni 70, gli anni in cui sembra che stessimo marciando a passo di fanfara verso il progresso, verso la liberazione. Invece c'è il padre che faceva la differenza, dice, io lo meno con la frusta, perché un calcio gli spezza una costola, la frusta fa male ma non lascia segno, perlomeno lascia segni che si possono rimarginare. Beh, non è un problema proprio da sottovalutare quello delle botte ai figli. Chi mi ascolta, la mia generazione, ha sicuramente preso botte dai propri genitori, ma va da sé, è normale. Io ancora un soprosso nell'ultima vertebra per un calcio mi ha dato mio padre, mi correva in tondo al tavolo di cucina, riuscendomi a agguantare, ma allungo un calcio, cioè ancora una bozzetta in fondo all'osso sacro, è il mio ricordo del papà morto. Però era normale, nessuno ci faceva caso, poi non è che facessero male le botte, era l'umiliazione così, anche i maestri picchiavano a scuola. Però oggi mi interessa parlare delle botte in famiglia. E si possono dare le botte in famiglia, è una questione molto di lana caprina, in realtà è ammessa la correzione dei figli attraverso anche tecniche manesche. Perlomeno l'Italia è tra i paesi dell'Unione Europea in cui non è messa al bando questa pratica. In altri 18 paesi non si può, guai chi tocca un figlio incorre nei rigori della legge. In Italia si può, certo, uno deve stare attento, non è che può spaccargli un osso a un figlio, rompergli il setto nasale, può dargli le botte a mano aperta. Ci sono trattati, ho letto su Wikipedia, ci sono delle voci importantissime che traggono letteratura ovunque ce ne sia, dice si può dare a mano aperta, si può dare sulle natiche, la sculacciata, perché è una zona molle, non ci sono organi vitali. Talune volte, poi non sa quali sono le talune volte, si può anche intervenire con degli oggetti che possono essere cinture, ciabatte, bastoni flessibili, cioè delle piccole canne, però bisogna stare attenti. In realtà, se vogliamo poi entrare nell'aspetto giuridico, potremmo avere dei problemi come ha avuto Hollande in Francia, perché c'era una legge che doveva si sta discutendo una legge sul diritto di famiglia in cui c'era con gran clamore scritto che finalmente anche la Francia sarebbe uscita tra i paesi che si muovevano nell'ambiguità rispetto alle botte ai figli, quindi sarebbe stata una norma precisa nel diritto di famiglia, il nuovo diritto di famiglia, in cui c'era scritto che i figli non si potevano toccare, e di questo andava molto fiero un deputato verde, Michel Lambert, che dice che ci deve essere in Francia una legge che vieti ogni forma di punizione corporale, violenza fisica a scopo educativo contro i bambini, come avviene già in 18 paesi europei. Però questo emendamento ha fatto saltare tutta la legge, perché c'è stata un'opposizione da parte del principale partito di centrodestra, ha fatto 600 emendamenti proprio per bloccare questa norma che vietava di picchiare i bambini. Perché? Perché una questione anche questa molto ambigua, perché si parlava non tanto dei genitori ma quanto anche chi avesse l'autorità dei genitori, quindi entrava in gioco tutta una definizione di famiglia non secondo la ferrea e ortodossa definizione dei millenni, quindi è saltato l'emendamento e quindi i bambini prendono comunque tranquillamente le botte in Francia. Beh, voi come la pensate? Alzate le mani sui sederini innocenti dei vostri bambini, usate oggetti, usate cinture, ciabatte, avete subito voi lo stesso trattamento? Ritenete che occorrerebbe allinearsi anche noi come altri paesi dell'Unione Europea? Non vedo nei programmi elettorali dei principali leader che stanno in questi giorni scannandosi veramente in vista della pronuncia del voto europeo botte ai bambini, il tema botte ai bambini. Ma ce lo mettereste in un programma elettorale? In realtà voi votereste chi è disposto a togliere l'emendamento, a fare un emendamento sul fatto che si possano picchiare i bambini? Beh, ditemi come la pensate. 800 24 0024. Verso mare, quante porto da sopra? No, se non lo tocca, quella si riposa. Ho messo un fusto, quella cammina. Allora è uguale a questa, perché è un'agenda di oggi. Bisogna ammezzarlo sulla strada di Trieste, giusto. Di dove siete voi? Provincia di Teramo. Sono venuto a Roma perché la giornata noi c'era poca cosa, poca rendita, noi altri non c'avevamo niente al paese. Allora che famo? Lavoriamo e ha abbandonato, perché se lavora a campagna. Certe montagne. Chiaro, questa è una visione arcaica, agreste, ancora su dei rapporti vessatori in cui il pater familias è il padrone di tutto, degli animali e dei figli. Guardate che i figli non è tanto tempo che vengono considerati qualcosa di molto diverso dall'animale. E quindi nella famiglia rurale, anche se siamo negli anni 70, ma il retaggio è ben più antico, i bambini vanno educati come si educa al somaro. Il somaro, se non si mena, sbaglia strada. Per fargli capire qual è la strada giusta, il somaro va bastonato. Oggi soltanto dire che un somaro vada bastonato è passibile di fucilazione alla schiena. Invece le botte ai bambini, comunque nessuno ha avuto forza, coraggio o consenso per dire che non si possono dare. Posso anche capirlo che si entra in una area molto delicata, l'area dell'educazione dei figli, si comincia a toccare e intaccare quello che è il diritto di famiglia, il diritto ai genitori di usare i sistemi che ritengono più adatti per allevare la propria figliolanza. E anche sull'entità della botta bisogna cominciare un pochino a capire. Non è mai stato fatto un formulario, un esatto tabulato in cui si dica: con la ciabatta sì, ma deve essere la ciabatta moscia, tipo De Fonseca, perché se pigliate invece la ciabatta, quella più tosta, o un'espadriglia, che magari il fondo è di gomma dura, potrebbe far male. Non si usano gli zoccoli e non si usano le scarpe col tacco, si usano però le ballerine. Entriamo comunque in un discorso molto difficile da definire, e quindi da questo punto di vista non vedo telefonate però. Dov'è? Ma fate vedere. Maddalena, ecco Maddalena, sì, non si vede, pronto? Non appare. Buongiorno. Sul mio monitor. Eccola Maddalena. Sono qua, buongiorno. Io sono un'educatrice e mi occupo di bambini da 0 a 36. Severa anni. O diciamo non severa. Non severa. Non severa, no, perché nella il termine maniera più ferma, oserei dire. Una ferma educatrice. Esatto, e assolutamente i bambini non si picchiano, si toccano, si interrompe una comunicazione e non porta a niente alzare le mani o qualsiasi altro oggetto su di un bambino. Ma non c'è nemmeno un limite ammissibile, un limite, no. Non so, nemmeno la sculacciatina. Io oggi no. Se provassi ad alzare mio figlio, uno mi spezzerebbe un braccio, che è cintura nerissima, non so quale arte marziale, l'altro ha delle chiappe talmente dure che me lo spezzerei comunque, quindi non potrei nemmeno sfiorarli. Ma quando ero un po' più piccolo gli ho dato qualcosina ogni tanto, capitava. Ma lei, come giustamente diceva, erano forse altri tempi e forse si avevano altri strumenti. Ma io parlo 10 anni fa, mica tanto. Ancora la sculacciata era lecita, cioè quando poi ti faceva uscire dalla grazia di Dio si prendesse da una bottarella dietro, così non si vabbè, può. Vabbè, lei gliela dava la sculacciata ai suoi bambini, sì. Io ai miei figli non la darei una sculacciata. Ecco. Ma non da fargli male, tanto per fare come col giornale il cane, far sentire questo rumore, loro sì. Hanno un deterrente, si ricordano. Ha detto come un cane, sì. Forse non ha una capacità di comprensione come una persona. Siccome il bambino è una persona, con un bambino si può parlare, si può iniziare a comunicare da subito, e assolutamente le botte non si danno mai. No, questo io guardi, ormai non è più un problema che mi tocca personalmente, dico con candore e con sincerità quella che è la mia esperienza personale, che penso condivisa da molti, però vorrei capire se un numero abbastanza importante, diciamo, di paesi, 18 paesi dell'Unione Europea, hanno deciso di metterlo scritto come legge, evidentemente qualche problema c'è. Se gli altri non lo fanno, perché in Italia, secondo lei, nessuno ha mai pensato di fare una legge e non si picchiano i bambini? Perché si vuole lasciare un certo margine, comunque, che ne so, alle suore baffone di tirare le orecchie, ai frati favaroni di pizzicare, oppure in assoluto è difficile definire qual è il limite? In assoluto è difficile definire qual è il limite, e sicuramente in Italia tante leggi non vengono fatte laddove dovrebbero essere fatte, e forse questa sarebbe invece da prendere in considerazione, come negli altri 18 paesi della Comunità Europea. Quindi è una questione di civilizzazione, dovrebbe capire un genitore moderno, sì, che non, quel sistema, sì. Non esiste, nemmeno la sculacciata così, no. Data a scopo deterrente, stai buono, stai fermo. No. Ma io penso anche che siano molto pochi i genitori che oggi ancora intervengono fisicamente sui figli, o comunque una percentuale basta, o così mi auguro che sia. Ma ferma, una, resta in ascolto Maddalena, visto che mi serve un supporto tecnico. Enrico, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, è un piacere. Come la pensa? Parlare con lei. Allora, racconto la mia esperienza. Mio figlio, quando aveva 4 anni, dopo che l'avevo sculacciato, quando succedeva, lo facevo sul sederino, quando era necessario, lo reputavo necessario, e quella volta lì mi guardò. Cioè lo sollevava sulle ginocchia e proprio lo sculacciava così al volo prendeva? No, così magari quando era in piedi gli dava una scolacciatina dietro, dipendeva un po' dalla gravità di della dritto cosa. Di rovescio, perché cambia molto? Col palmo. E mi facevo più male io, francamente, perché avevo un bel sederone. Sì, questo è il problema, che se non è abituato ci sta male. Sì, non volevo. Però con la ciabatta non si farebbe male. No, mi sembrava brutto anche farlo. E fatto sta che quella volta lì aveva 4 anni, pensi, e mi guardò, aveva l'espressione offesa, e mi disse: papà, per favore, quando mi devi punire fai un'altra cosa, però non picchiarmi. Io ho capito, mi ha impressionato. Beh, è un mostro questo ragazzino, 4 anni, ha detto: papà, per favore, se mi devi punire fai un'altra cosa, ma non picchiarmi. Esatto, io ho capito che lui la sentiva come diceva la signora lì presente, è come una rottura. Ma aggiunto, perché così diciamo condizioni in maniera impressionante il mio io interiore, qualcosa del genere. Beh, insomma, non l'aveva espresso, però si capiva dal volto che lui la prendeva come un'offesa, come una rottura di rapporto fra me e lui, no? Io da quel momento lì l'ho rispettato e ho trovato altri modi, che ne so, non fargli una cosa. Adesso, per esempio, non dargli la paghetta, e funziona perfettamente. A tagliargli i viveri. Adesso ha 12 anni, se capita che fa con qualche macello, che ne so... Non ti pago più. Gli faccio saltare la paghetta per un mese, ma lui questa cosa qua la sente moltissimo e funziona, devo dire che funziona. Però io non l'ho mai più toccato, perché lo considero un modo per rispettare la sua persona. Non è che il figlio dice: papà, dammi uno schiaffo ma dammi i soldi alla fine, no? No, preferisce. Io farei questo cambio. Va bene, grazie. Sentiamo Marco. Sì, buongiorno. Marco. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Il suo punto di vista. Il mio punto di vista è questo. Intanto sorridevo per l'intervento della persona precedente, perché effettivamente una cosa da tenere in considerazione è sicuramente la soggettività, quindi ogni bambino è differente. Beh, ci sono dei bimbi minchia che le levano dalle mani. Ma fermiamoci un attimo, devo dare la linea al traffico, così ci lascia in suspense qual è il suo punto di vista. Melog, cronache meridiane. Lì mamma si inquieta, perché mamma si inquieta, e poi ti dà uno scappellotto. Me sa, mio padre quando ero bimbo non è che mi picchiava. Mio padre mi gonfiava come una zampogna, mio padre mi faceva. E mo vieni qua, mo tu vieni qua, farabutta di inguente come t'ho messa al mondo, te ce l'avevo con sti mani, mo vieni qua. Vieni, guarda che oggi me ci trovi. Io a mio padre ce lo trovo sempre, non si sa com'è. Mai una volta di deito, papà, poi è uscito a prendere sigarette. È brutto, ma sentì una volta dire un padre a un figlio mentre lo menava sta cosa. Non so se posso dirlo, ma sì, posso dirlo, va. Tanto visto che siamo in un momento in cui la gergalità toscaneggiante va molto di moda. Disse: taci tu, schizzata della mi fava. Allora, parlavamo con Marco. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Continuiamo allora. Continuiamo, io riflettevo nel frattempo su questa domanda. No, lo dicevo perché veramente... riprendevo il tema di Brignano in un'altra latitudine del nostro paese, come era interpretato il concetto: ti ho messo al mondo, adesso tu fai quello che voglio io. Prego Marco. È un classico questo. Dica Marco, prego. Lei stava esponendo il suo punto di vista. Sì, infatti, il mio parere è questo, al di là che il presupposto è quello di valutare bene gli equilibri e di valutare bene le motivazioni per le quali la punizione debba arrivare per forza di cose a qualcosa di corporale. Chi sostiene che in assoluto non ci sia questo tipo di possibilità, questo tipo di strumento educativo, secondo me o non ha mai avuto figli o se li fa curare da qualcun altro. Perché a fronte di situazioni che si vengono a presentare, dove si cerca di spiegare al figlio che bisogna stare fermi, bisogna stare zitti in certe situazioni, comportarsi in un certo modo, occorrono dei deterrenti, dice, un deterrente ci vuole, questo potrebbe essere tanti, ma questo è il problema, perché se lei mette una legge, scrive una legge e diventa effettiva una legge, poi una legge prevede delle sanzioni, prende delle delazioni. E il bambino cosa fa? A un certo punto alza il telefono, appena parla, come il bambino di prima, dice: papà, ti prego non ferire il mio io interiore, via dicendo, chiama subito il telefono azzurro, dice: mamma, ha dato uno schiaffo, e uno si trova imprigionato in una sorta di ricatto perenne. Ma le ricordo che ci sono dei paesi in cui le punizioni corporali sono lecite. In Australia, per esempio, si può, non esiste. In Canada si può, però dice un uso ragionevole della forza, e su questo ragionevole si può discutere quanto uno vuole. Nel Regno Unito si può picchiare i bambini purché non lascino segni esteriori. Quindi sposare ad esempio un calzino con dentro il brecciolino, la lettiera del letto, che non lascia segni ma provoca grosse lesioni interiori però invisibili. Come vedete è difficile definirlo se cominciamo a entrare nello specifico. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho 52 anni e sono della generazione di quelli che quando erano bambini se combinavi qualcosa fuori era meglio non dirlo a casa, perché altrimenti ti menavano. Esatto. Ma con le mani o anche con oggetti? Ma no, con le mani bastava. Principalmente mia mamma spesso con le mani, e quando era peggio era mio papà. Detto questo, i miei genitori ci sono tuttora. Io voglio non chiama la mamma, chiama solo padre. Le mamme tutte innocenti, nessuno usa il mestolo, niente. No. Fortunatamente usavo le mani, ma erano sufficienti. Evidentemente non abbastanza per farmi indirigare dritto. Comunque sono cresciuto, ho una migliore famiglia, ho la fortuna di avere tre figli. E come li mena? Non si può dire, secondo me non si può generalizzare tutto da un fascio in genere, e meno che meno coi figli. Sì, io ma ho tre figli. Al sintesi, come li mena tre figli? Allora, non li meno, cioè, attenzione, la prima basta, che è la più giovane, partendo dalla più giovane, basta spiegare le cose e le capisce. E va bene. Il secondo glielo si dice due volte. E il terzo? Lo si guarda male, capisce. La terza, che è la più grande, mi piacerebbe che chi pontifica tanto con i figli avesse una figlia come è stata la mia più grande, per rendersi conto cosa vuol dire. Ma la terza non ha spiegato, la prima basta una chiacchiera, la seconda una chiacchiera più intensa, la terza cosa serve? La terza, le dico solo questo, eravamo al mare, aveva due anni la bambina, io e mia moglie, che non siamo estremisti, non siamo violenti, non c'è niente di che, una coppia normalissima. Ci siamo detti al mare quest'anno, siamo rilassati, forse sarà il lavoro, aveva due anni, era la più grande, era la prima figlia. Speriamo di non doverla almeno sculacciare tutti i giorni, non c'era niente da fare. Tutti i giorni, siccome suonava male sculacciare una bambina, cosa succedeva? La prendevo in braccio al millesimo capriccio e dava un bel pizzicotto sotto. Ah, come le monache, come le suore, con le suore. Questa è la tecnica, esatto, delle suore dell'asilo. Lei piangeva, la stringevo, cos'hai Paola? Che infame. Perché? E tutti c'erano, povera bambina. Ma questa è una cosa sadica. Arrivava al punto di tranquillizzarsi. Sì, però si fermi, perché se qualcuno sente questa telefonata, veramente le toglie la figlia. È un metodo che usavano le suore negli anni 50. A 22 anni è felice. Ha ripreso a studiare, a fare l'università e tutto, ci vuole molto bene, secondo me quello era il metodo. Ma non le ha chiesto, diciamo, dei sussidi per un intervento di chirurgia estetica per togliersi quei lividi perenni che ancora c'ha sulle chiappe, no? No, non ce l'ha, non ha lividi perenni, non eravamo così sanguinari. Però secondo me aveva la necessità di essere corretta. È chiaro, è chiaro. Gianfranco, basta, Gianfranco. Salute. Io sono stupito a sentire questa puntata sua oggi. Il mondo è questo, io sono un semplice neutrale mediatore, non istigo le persone. Lo so, a me sembra stranissimo che chiunque... Lei con cosa li picchia i figli? Sulle natiche, aspetti, che chiunque abbia picchiato il figlio ma sulle natiche ma non le abbia mai dato uno schiaffo, non ci credo. Certo. Io ho 51 anni, Sardegna, e sono stato picchiato, ma con degli strumenti che probabilmente lei neanche conosce. Gli elenchi, me lo dica. Esempio, la zirogna, sa cos'è? Boh, la zirogna no, cos'è? Allora, la zirogna è il nervo del pene e del bue. Ah, il nervo di bue, sì, conosco benissimo il nervo di bue, intrecciato, certo. Benissimo, ecco. Ma lascia dei segni mortali, fa malissimo. Infatti, no, ma sa cos'è che fa più male? È, diciamo, il nervo che sta nel pisello del bue, che si intreccia con una simpatica, diventa un affare durissimo. Viene usato per i cavalli, ma quello lì. Ma la cosa che fa più male, di cui io porto ricordo, è... Lei forse lo ha conosciuto, è la prolunga del ferro da stiro, quello bianco e nero ma rivestito con... Di stoffa. Con la stoffa, bravissimo. Certo. Quello era così lungo che veniva piegato in quattro, quindi erano otto pezzi che come apriva faceva tutto il corpo. Prang! Ha capito? Sì, così non lasciava segni, diciamo, non usciva sangue ma faceva un male bestiale. E quello spaccava. Certo. Esempio, un'altra stupidaggine. Io a scuola dovevo portare la bacchetta. cioè, che poi era un bastone di per essere picchiato dal maestro. Ma cioè, ma non solo io, però tutta la classe. A ognuno sceglieva la sua, dice: "Maestro, picchiami con questa." No, no, no, una, e quando si rompeva, perché poi quando diventava secca o un colpo andava sul banco, si rompeva e doveva portarne un altro. Vabbè, una scuola di sadomasochismo migliore di così non potrebbe esserci. Poi vi lamentate se ci sono negozi che vendono staffili, fruste, bavagli e cappucci che fanno tanti affari. A domani.